Letture di Radio 24. Gianni Biondillo e Michele Monina decidono di avvicinarsi a Milano dall'esterno, in un territorio dimenticato dai viaggiatori abituali, che gira tutto attorno alla città, le tangenziali. Un viaggio tra luoghi, voci e personaggi che bucano la coltre di cemento della periferia del capoluogo lombardo. Immaginatevi la scena. Ci siamo io, Eleonora, coi suoi pantaloni orientali, i suoi infradito, e Gianni. Siamo di fronte a un monumento alla stupidità umana, increduli. Il monumento è una fabbrica che confina in un lato con una villa a due piani. Due edifici uniti da un dio impietoso e probabilmente cieco. In mezzo al cortile, di fianco a un furgone con delle travi in legno appoggiate sul retro, una casetta di plastica che imita una baita di montagna e uno scivolo, sempre in plastica, segno che nella villa vivono dei bambini o che la fabbrica concede ai suoi dipendenti attimi di svago quantomeno bizzarri. Io sto sorseggiando la mia immancabile Red Bull, che a questo punto, come la pasticceria Vecchia Sicilia, spero si decida a sponsorizzarmi a vita. Gianni mangia datteri snocciolati. Eleonora, nonostante il suo impagabile buon umore, si guarda intorno vagamente attonita. Tutti facciamo foto. La signora nascosta male dietro le tende in pizzo comprate al brico deve avere i brividi lungo la schiena nel vedere noi, me soprattutto, immobili oltre il cancello a fare foto della sua casa. Io, capelli lunghi legati in una coda, barba di oltre un mese, Red Bull in mano. Potrei essere a capo di un circo, o quantomeno di una giostra. Sì, il tipo che raccoglie i biglietti del calcio in culo, o che si diverte ad alzare la cordicella a cui sta appesa la coda di procione, proprio un secondo prima che tu riesca finalmente ad afferrarla. Sono io quello lì. E adesso sto fotografando i particolari della villa della signora, intenzionato con ogni probabilità a tornarci di notte, per rapire i figli, rubare l'argenteria, picchiare il padrone di casa. Mi sa che oggi ho dato da lavorare a una guardia del corpo, dico mentre ce ne andiamo. Quella di sicuro crede che siamo dei delinquenti. Nel mentre cerco un buzzico della differenziata dove gettare la lattina ormai vuota della mia bevanda del cuore. Da queste parti non tutti devono essere altrettanto attenti all'ambiente, si direbbe. E sicuramente ci deve essere qualche nostalgico dei tempi in cui internet era solo una fantasia nella testa di gente come William Gibson e qualche nerd al soldo dell'esercito americano. Lungo la strada, infatti, a fianco degli immancabili volantini elettorali che troveremo ovunque, ci sono i brandelli di una rivista porno. Si capisce bene di che si tratta perché alcuni dettagli non possono essere fraintesi. Subito dopo le ville e le fabbrichette fuse insieme, andiamo a imbatterci in una sorta di mini zoo di Fasano, appoggiato lì, tra un deposito di silos contenenti Dio sa cosa e un'altra fabbrica sfitta in attesa di essere convertita in loft per artisti o stilisti, in un futuro prossimo che vedrà anche questa zona, dimenticata dal dio di poche righe sopra, bonificata e innalzata a quartiere residenziale. All'inizio pensiamo si tratti di un orto abusivo, cosa che ci capiterà in seguito di vedere parecchie volte, ma la puzza che arriva al nostro naso dimostra che non si tratta di verdure, ma di bestie. Ci avviciniamo al recinto e vediamo che ci sono papere, galline e animali vari. Soprattutto c'è un tacchino oversize, di quelli che non sfigurerebbero sulle tavole degli americani il giorno del Thanksgiving. Che bello! C'è un pony appena nato. È la prima volta che ne vedo uno, ci dice Eleonora, anche in assenza di bianconigli in fuga, sempre più nei panni di Alice nel Paese delle Meraviglie. E dire che studio veterinaria! Il pony in questione, nato il 9 giugno 2009, si chiama Luna, come attesta un cartello scritto da mano infantile appeso al recinto. Essendo oggi il 10, possiamo in effetti dichiarare che di pony appena nato si tratta. Riguardo agli studi di Eleonora, invece, ci sarebbe da aprire un lungo discorso riguardo l'essere o il riuscire ad essere un professionista della musica in Italia. Perché chiaramente, durante le ore della nostra camminata, tra una mia dissertazione e l'altra, noi viandanti si è molto parlato, spesso proprio di musica leggera, e si è anche parlato di Oggiono. A questo punto potrei anche proseguire, contando sul fatto che voi lettori, immagino e spero, non siate tutti di Milano e che quindi non sappiate esattamente cosa sia Oggiono. Potrei aver semplicemente buttato lì una bombetta puzzolente per poi scappare via, lasciandovi con un lieve interrogativo. Invece, visto che mi piace aprire parentesi che spesso non chiudo, vi voglio proprio spiegare perché abbiamo parlato di Oggiono. Non prima di avervi detto che di cittadina in provincia di Varese si tratta. Quando si è deciso di invitare ospiti musicali, in realtà nel nostro essere due maniaci abitudinari, non solo siamo sempre partiti dallo stesso posto, la vecchia Sicilia, ma ogni giorno, nell'andare a lasciare la mia macchina sotto casa per poi prendere i mezzi pubblici che ci avrebbero condotto in Inculonia, cioè nel punto della tangenziale da dove sarebbe partita la nostra camminata del giorno, ci siamo sentiti sempre solo la stessa canzone, senza neanche una lira, di Folco Orselli. Una canzone che recita, tra le altre rime, quella che, a mio modesto avviso, è una delle più geniali concepite da mente umana, almeno in lingua italiana. Era una di Oggiono, io, davvero galantuomo, le pagavo ogni notte il motel. Una rima improbabile, divenuta una specie di motto di noi viandanti della tangenziale. Il tempo di vedere un topolino appiccicato a un pezzo di cartone con la colla, modo contadino per difendersi dagli invasori, Dio non voglia che se ne ricordi la Lega, di rimanere basiti di fronte a una scritta fatta con lo spray su un muro in finti mattoni rustici che, virgolettata, recitava «Quindi molla la tipa che è con te o mi perderai. Potresti non rivedermi mai più». Non si sa mai. Di emozionarci di fronte all'epifania ballardiana di un laboratorio di lapidi e statue funerarie e ci troviamo finalmente in capo a Mediaset. La Space Needle sta lì, a memoria degli automobilisti che sfrecciano dentro le loro auto. All'ingresso campeggia il famoso biscione, simbolo scippato ai Visconti da Berlusconi. Dietro la sbarra di accesso si trova una fontana con giochi d'acqua. Subito appresso, gli Studios Hotel, con tanto di ingresso hollywoodiano e le foto dei grandi del cinema a costeggiare la passerella. Gianni è il primo a notare la parete degli studi, che neanche Ballard avrebbe potuto ideare. C'è un enorme campo di grano con sopra un cielo azzurrino. Tutta una parete fatta di un paio di enormi pannelli, simili alle carte da parati con le fotografie di montagna, che per un breve periodo infestarono le case dei piccolo borghesi, in compagnia della moquette negli anni 70. Il colpo di vera classe è dato dal caso, però. Visto che uno dei due pannelli è sempre sotto i raggi del sole, mentre l'altro è sempre in ombra, il cielo e il grano cambiano decisamente colore a seconda di dove uno guarda. Da una parte c'è un cielo limpido, dall'altra uno sbiadito, uggioso. Io ed Eleonora ci facciamo fotografare davanti alla parte sfiorita. Poi proseguiamo. Ancora poche centinaia di metri e arriviamo a Cascina Gobba, la fine di questa prima tappa. Avete ascoltato la lettura di un estratto del libro Tangenziali, due viandanti ai bordi della città, di Gianni Biondillo e Michele Monina, Guanda Editore, 308 pagine, 17 euro. Il diavolo e la tragedia. Due categorie con cui le persone analizzano gli eventi storici più funesti. Con la prima si identifica un malvagio o gruppi di malvagi che hanno scatenato il male. La tragedia, invece, configura l'evento come scatenato da forze impersonali e spesso è utilizzata dalla gente per togliersi di mezzo dalle azioni compiute. Prendiamo un evento o una costellazione di eventi del presente o del passato cui siano associate conseguenze che giudichiamo funeste. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, la crisi finanziaria, i conflitti di civiltà, eccetera. Secondo una tesi che ha avuto larga diffusione, per spiegare questi eventi noi tendiamo ad adottare l'una o l'altra di due strategie interpretative chiamate rispettivamente il diavolo e la tragedia. Con la prima strategia, il diavolo, identifichiamo un malvagio o un gruppo di malvagi e attribuiamo alla sua volontà quanto di male accade o è accaduto. Con la seconda strategia, la tragedia, spieghiamo gli eventi come l'effetto di una concatenazione di cause impersonali. Qui non c'è un malvagio, o se c'è, ha una parte secondaria. Il riferimento è alla tragedia greca, ove il destino degli uomini non è nelle loro mani, ma in quelle degli dèi. Chi sceglie l'interpretazione del diavolo spiega, crede di spiegare, con facilità, la Seconda Guerra Mondiale. C'era un malvagio, Hitler, e la guerra scoppiò per causa sua. Chi invece sceglie l'interpretazione della tragedia deve ricorrere a un ragionamento più complesso. Deve fare riferimento a una concatenazione di eventi. La questione delle riparazioni tedesche, la debolezza della Repubblica di Weimar, l'impatto devastante della Grande Depressione, eccetera. In questa seconda interpretazione, Hitler non scompare, ma è egli stesso il frutto di una lunga catena di cause e di effetti. L'interpretazione del diavolo è semplicistica, ma è anche la più diffusa. Le retoriche politiche ne sono intrise. Ciò che accade di male è colpa di Berlusconi, oppure è colpa dei comunisti. Vi suona familiare? È la più diffusa perché non impone la fatica di informarsi e di pensare. L'interpretazione della tragedia è migliore, ma anch'essa delle pecche. Se portate alle estreme conseguenze, perde persuasività, trasforma gli uomini da soggetti, agenti, in oggetti, li elimina dal quadro. La scena risulta dominata solo da forze impersonali, ciò non è corretto. Gli uomini agiscono e il fatto che la loro limitata razionalità e la complessità delle situazioni storiche, combinandosi, determinino cascate di conseguenze non intenzionali, non autorizza a toglierli di mezzo, a negare la loro titolarità delle azioni che compiono. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La tragedia e il diavolo di Angelo Panebianco, da 7 del 24 febbraio.